Zio Claudio. Beh, te l'ho posto qua facendo un po' di modifiche. C'avevo due radio lontane, le ho avvicinate. Ehi, ehi, buono, buono, bisogna sempre rivoluzionare, non lasciare tutto statico come faccio io. Bene. Beh, com'è la giornata dove sei uscito? Perché alterna un po' sole, un po' nuvole, un po' sole e un po' nuvole. Volevo muovere un po' la macchina, fare un giro. Poi stasera andiamo dal medico a ritirare due ricette. Purtroppo la gattina non è tornata. Guarda, non mi ispira niente di buono la situazione. Ma mai dire mai. A volte tornano in giorno dopo giorni, come ha detto Natalino e come hanno detto altre persone, ma speriamo, dai, perché ci eravamo abituati al carattere un po' della gattina. E sai, ogni gatto ha il suo carattere come le persone e non lo trovi uguale. Cioè, potresti prendere l'altro gatto, ma avrà un carattere diverso. E vabbè, che ci vuoi fare? Sì, ma questa gattina è sparita nel nulla. No, è caduta, era nella corbuletta, no? Nella cucetta che era sull'avanzale. Tanto noi siamo al piano rialzato, quindi bassissimo. È caduta, sicuramente si è sbilanciata, è caduta assieme alla corbula. E mamma di notte, alle 4 di notte, non si è alzata per andare in bagno, ha visto la corbula giù e il gatto si è allontanato dalla zona, però la gattina, capito? Si è allontanata dalla zona e chissà dove, si era andata in zona di giardini, perché qua in zona, bene o male, i giardini interni ce ne sono, dove è pieno di gatti, capito? Però finché non torna qua in zona, valla a trovare, chissà dove sia uscita. Allora, la gattina è nascosta perché ha avuto paura. Io al mio, che gli avevo cambiato nome, gli avevo messo Icaro, capito? Perché dal nono piano era sulla finestra, c'era un piccione nella ringhiera del palatino. Ha detto: vieni qui, non ti muovere, vieni qui. Come è partito il piccione c'ha le ali, lui invece ali non ne ha. Era partito anche lei, ok? Caduta girandosi, 9 piani a testa, girandosi è caduta sopra la palma, non si è fatto niente, allora lo spavento si è nascosta, non sono riuscito a trovarla da nessuna parte, si era nascosta dentro un buco, proprio perché aveva paura, e dopo un paio di giorni sentivano miagolare, mi hanno chiamato, siccome non si faceva toccare a nessuno, io sono sceso, l'ho tolta da questo buco e l'ho riportata su, non si è fatto assolutamente niente, quindi sono spaventata ed è nascosta. Eia, magari qua nell'immediato della via non ci sono posti dove nascondersi, potrebbe essere andata verso i giardini, chi lo sa. Quella gattina, prima che noi la prendessimo, era già gatta di casa, no? Ti spiego, poi è rimasta incinta e quelli là di Polo Torres l'hanno abbandonata perché era incinta, no? Anziché risolvere il problema, diciamo, l'hanno abbandonata in quella via dietro, in alto, dietro il nautico. Gianni mi ha detto il nome ma non me lo ricordo della via, quindi lei era nascosta, pensa che è rimasta vari giorni su una nascosta su un alberello, mi pare che fosse una palma lo stesso, perché non andava d'accordo con gli altri gatti, aveva paura. Infatti noi si faceva avvicinare, non si faceva toccare, l'abbiamo presa e l'abbiamo portata a Sassari e poi si è abituata a noi, insomma. Però dalle persone sconosciute non si fa toccare, capito? Tende un po' a soffiare o comunque allontanarsi. Quindi non so se abbia dato confidenza a qualcuno, ma dubito. Io spero di ritrovarla, dai. Stiamo mettendo anche di notte, abbiamo messo cartelli sui lampioni, no? Con tanto di foto. Abbiamo messo da mangiare in zona in modo che venga tirata anche dall'odore, se di notte, sai, di notte i gatti escono a fare in giro, così in modo che l'odore la tiri nel caso che venga in zona. E vabbè, vediamo, dai. Vediamo cosa ci dice il destino. Io ero qua, sveglio in casa, però non sono uscito oggi ancora, eh. Usciamo stasera, facciamo un paio di commissioni, dai. No, no, io ho fatto un po' di pulizia qua, tolto la roba che non serviva, e basta, sto continuando a mettere a posto, lo spazio alle radio che mi interessano, e c'è la voce trombata, l'ho spostata da un'altra parte, tutto. Un gemellino che non mi serve, capito? Ho messo un po' di ordine. Va bene, va bene. E io, poi avevo fatto quella saldatura al PL, no? Al PL dell'antenna, ho aggiunto un po' di stagno, mi è rimasto ai lati perché sennò non entrava proprio nel baracchino anche nel 3009. Insomma, la metto in quel baracchinetto piccolo, stessa storia, ma porca miseria, balla, balla, o ci metti un caraccio di stagno, però poi non entra gli altri, e cosa devo fare? Ah, che rottura di scatole, guarda, che rottura, oggi ci riprova, aggiungo ancora appena appena di stagno, però niente ai lati, deve essere solo in punta, capito? In modo che vada bene con tutti gli apparati, l'antenna grande. Mi devo tutto sgranchire, mi devo fare la barba perché ho la barba lunga. E la mia barba ormai è mezza bianca e mezza scura, Capito? Si vede che è mezza bianca e mezza scura. Imbaccende. Vecchio, stai diventando. Buonasera. Poi Marco Giù, come stai? Bene, grazie. E tu, tutto bene? Qui Giù, ho fatto la visita ieri, domani rientro al lavoro. Domani si riprende il QRL, ok, sembra che sia andato tutto bene le visite. Sono risultate positive ai controlli, cioè positive nel senso che non c'è niente, quindi negative ai controlli. La cura è andata bene, adesso devo solo stare attento a non ricadere nel tranello, ok, dei batteri appunto che ci sono nel mio lavoro. Avanti Marco per Giulia. Ah, potrebbe essere addirittura attinente ai batteri che trovate lì nei vasconi, quella roba lì, ecco. Ciao Giulio, ben sentito dopo tanto, io ovviamente ho un po' la voce nasale perché il naso è sempre un po' chiuso. E, bene, bene, hai fatto una convalescenza un po' lunga, ma cos'era nel tuo caso, influenza? Diciamo influenza, dai, mal di gola, queste cose qua, che ancora poi tra l'altro sono un po' rauco. Va bene, comunque già sta passando, ma diciamo che ho passato il tempo facendo delle passeggiate la sera così, proprio perché per non annoiarmi, insomma, ecco, tutto lì. Comunque ciao Marco, salutoni, ben ascoltato, e salutoni anche a Claudio, ben ascoltato come poi il tempo. Vabbè, è difeso da me il tempo che sono mancato, ma anche adesso un quarto d'ora, ci metto un quarto d'ora, sto aspettando gente che devo uscire, no? Vabbè, dai, riprende qua. Ho scelto un attimo di bianco, beh vabbè, noi siamo tappettati un pochino, dai, due messaggi su WhatsApp ce li abbiamo scambiati, no, ma infatti avevo detto che non eri in forma, che poi avevi qualcosa da fare, quindi eri un po' assente, ma comunque noi tutte le sere siamo qua, con le 4-5 persone, e continuiamo a fare QSO e tenere sempre il canale attivo, diciamo, dai. Avanti Marco. Sì, cerchiamo di tenerlo vivo questo canale, perché adesso, insomma, ci siamo dimezzati, dai, perché una parte va su un altro canale, insomma. E Giulio, si sente la voce rauca, che boh, si sente, cioè un po', si sente come. Io vabbè, a parte il naso chiuso solito mio, il setto nasale un po' deviato, mi pare il destro, quindi respiro un po' sempre male. Solo che ho paura, mamma mia, andare da questi di Sassari a farmi la mettere a posto, perché mi pare che ti mettono con lo scalpello, non so se l'avete mai visto anche a Nippentac, no? Te lo rompono con lo scalpello, mi pare, con una mazzetta, e poi ti mettono delle cannule in fondo al naso per tenerlo dritto, mi, per tenere dritti i condotti, insomma un po' bruttina la cosa. Però mi risolverebbe un po' delle seccature, diciamo, dai. Tornerebbe dritto il setto nasale e sarebbe una cosa buona. Vabbè, si vedrà in futuro, dai. Ma queste cose mediche mi spaventano abbastanza. Naturalmente te lo fanno in anestesia generale, no? Che è una cosa anche un po' dolorosa, no? Ti debbono praticamente rompere il naso, ecco, per farlo tornare dritto. Ok, io adesso, Claudio, ne approfitto perché sono, te l'ho detto, allo stato brado, mi devo fare la barba, vestire, calzare, poi piglio la macchina e faccio un giretto prima di andare poi dal medico a ritirare le ricette. Metterò l'antenna piccola, dai, tanto in città va più che bene, dai. Poi tu sei in alto, mi senti sempre. Posso capire Natalino che è come che fosse un malamobile, quindi può capitare che non mi sento ogni tanto, vabbè, dai, non è così grave. Ok, ciao Claudio, ciao Giulio, vado a dirozzarmi, dai, soprattutto la barba, perché poi non mi piace stare con la barba così, che sembra un tossico, sembra, dai. Non che i tossici abbiano sempre la barba lunga, ma non mi piace, dai. E poi mi devo vestire e tutto, dai. Ci sentiamo più tardi, forse dalla macchina riprendo, poco più tardi. Poi entrerà Gianni, entreranno tutti, dai. A dopo. Ciao Giulio. Quindi ben entrato, ciao Claudio. Riprendi, Claudio. D'accordo, allora Marco, va bene. Ci aggiorniamo più tardi. Ok. Avanti, Giulio. Ok, ciao Marco. Il mio problema è che mi si forma del catarro in gola e dunque, oltre al fatto che ogni tanto mi fa avere un colpo di tosse e poi a momenti ho la voce rauca, in certi momenti quando mi si chiarisce non è così rauco, diciamo che è quasi normale, però di solito questo catarro mi saranno partito già un bel po' di tempo, non riesco a debellarlo, comunque staremo a vedere, passerà. Ciao comunque Marco, ci sentiamo alle plus, avanti qua. Insomma, non avremo sempre giù, dai. Ce ne sono sempre i problemi. Comunque l'importante è che ci siamo, ed è tutto a posto pure per il resto, pazienza. Vabbè, quello sì. No, ma è fastidioso, anche fastidioso, anche durante la notte mi sveglia proprio perché mi viene da dare un colpo di tosse, ma un colpettino così, non una cosa lunga, un colpo proprio, ma proprio in quel momento da fastidio e mi sveglia anche durante la notte, però passerà. Infatti dovrò ritornare dal dottore, dopo ci vado e vediamo un po' che cosa mi dice, mi darà qualche altro sciroppo che adesso staremo a vedere, dai, ripeti. Sì, sicuramente ti darà qualche sciroppo appunto per appellare questa raucesine, questa cosa. E io ho fatto cura di cortisone, ho fatto quasi 20 punture di penicillina, un casino. Però diciamo che è andato bene. Meglio così. Ogni tanto ci vuole una revisionata. Bisogna fare il tagliando di tanto in tanto, soprattutto all'età che ho io. E se sa, i tagliandi sicuramente se ne dovrò fare più di uno. Speriamo bene, comunque. Si tira avanti, dai, nel migliore dei modi, si cerca perlomeno di andare avanti nel migliore dei modi. Poi, pazienza, ecco cosa ci vuoi fare. Sopportiamo, Claudio, quindi. Argentina, infatti non mi interessa, ma chi se ne frega, alla fine tu, che va bene così, Giulio, e purtroppo una certa età ci sono sempre, quindi cosa vuoi fare? Ah beh, niente da fare e niente da pretendere, perché si sa, lo sappiamo che a una certa età non c'è da meravigliarsi se arrivano degli acciacchi e dei malanni, ci mancherebbe altro. Comunque, vediamo un po'. No, nel momento che non sento la ruggine nella gola, cioè il catarro nella gola, va bene, non ci sono problemi. Ma frequentemente la sento e dunque mi fa dare un colpettino di tosse, al suo tempo divento rauco. Vabbè, comunque, saranno a vedere. No. Non lo so, ci vuole la pompa per l'autospurgo. E tu non fumi, però che lo sai chissà, tutta la polvere della falegnameria. Sì, beh certo, sicuramente è quello, sicuramente è quello, magari ha fatto deposito e dunque il problema c'è, nel senso che è fastidioso, ecco. Da fastidio. Poi in questi giorni mi stavo facendo un lavoretto di ferro in bottega e dunque magari sarà anche quello, che ne so, boh, tipo saldature eccetera, no? Per cui sarà anche quello, fumo e di saldatura, che ne so, boh, staremo a vedere, passerà. Sì, abbassa sempre tutto, non è il problema. No, io sto mettendo un po' a posto qua, perché guarda, c'è un casino che non ti dico, allora stavo un po' mettendo a posto, allora, diciamo che ho finito, facevo un po' di spostamenti, sai, io sempre qua, niente a fare, a spostare, c'avevo due radio lontane, allora le sono messe vicine, così le posso usare. Beh certo, beh ovvio, avendoci lì a disposizione è sempre meglio usarle, anche per evitare eventuali avarie, non si sa mai, è meglio sempre almeno far riscaldare tutti i giorni, sì lo so che lo fai, perché quando attacchi l'interruttore generale si accende tutto e dunque va bene così, ed è sufficiente quello per non avere dei problemi dopo, magari in seguito, lasciandolo così spento. Beh certo, giusto per me, non è che vi sia tutta la necessità, però meglio fusare là. Necessità, ecco? Sì, beh certo, ma è così. Ma dai, adesso sto aspettando gente che devo uscire un attimo e poi passo anche dal medico e vediamo un po' che cosa mi dice e che cosa mi ordina. Avanti il brecco. Sì, Santiago Stente, mi ascolta Radio 5, ciao, buon Natale. È ora che riuscissi a farti ascoltare da me anche, perché in PMR non ti sentivo proprio, va bene così, sono contento per te. Vabbè, la partita in PMR, io non ce l'ho più, l'ho dato, l'ho messo la mattina, l'ho messo su subito.it, no, beh, tu non ci crederai, la sera stessa mi hanno telefonato e l'ho dato, ma guarda lui, due ne avevo e due ne ho dato, adesso quanta io lo vai a avviati e non mi interessa. Avanti, ti prendi ancora la lì. Sì, no, già ti sento bene, no, non ci sono problemi, non è il segnale che interessa, la radio è buona, è ultima, per cui non faccio nessunissima difficoltà ad ascoltarti. È una radio 5, ripeto, è come se fosse un Santiago 910, per dartene un'idea, no? Di come va benissimo qui da me, almeno io ti sento bene. Avanti qua. Sì, ho fatto dei miglioramenti eccezionali in Natalino, piano piano, adesso ci organizziamo per montare un'antenna come cristiani, ciao, buonasera, ben sentito. Piano piano, va bene, no, anch'io, no, ma per carità, assolutamente, no, io purtroppo non lo posso posso vendere perché c'ho la sono radio amatoriale, però ho staccato, non mi interessa mai andare a parlare lì, ma fare che cosa? Assolutamente, sta diventando peggio l'altra volta, quindi poi sai benissimo che io con alcuni non tratto, quindi meglio così. Va bene, quindi te l'hai venduto. Scherzando, ha fatto adesso, lo voglio mettere, voglio vedere, magari c'è gente che mette qualcosa da vendere e ci sta dei mesi per riuscire a vendere, perché l'intenzione non era quello di venderlo, però l'ho messo così, scherzando, voglio vedere se qualcuno mi contatta, capita, lascia la testa quando sei telefonato, vabbè, te lo vai, e io lo atto, ciccia. Questo lo sento perché magari domani non me lo posso di comprare, per carità, ci mancherebbe altro, perché non ti credere che ci rinuncio a parlare anche là, anche se c'è qualcuno che non mi interessa parlarci, però ci sono delle persone per la quale io voglio parlarci con loro, a meno che non si facciano sentire qua, per me va bene, ma se poi c'è qualcuno che è un infame, allora no, e quello no, assolutamente no, riprendi qua. No, già non ci entrano qua, non ti preoccupare, questo mi dispiace tantissimo, lo dico apertamente perché adesso ha fatto una gaffa gioia e parlano sul 20, neanche Graziano sta entrando qua, giusto? Capite? Neanche Graziano sta entrando qua, parla sul 20 con Gio Maria, capite? Per questo mi dispiace perché io Graziano non gli ho fatto niente, non ho fatto niente a nessuno, però sai. Ciao Eugenio, buonasera, come mai ti sei abbassato nel finale di questo piccolissimo passaggio che hai fatto? Ti ho sentito un po' il passo basso, prima ti ho sentito sparato un po' il basso, vabbè adesso è normale, forse stavi terminando e hai fatto prima a mollare prima che tu riuscissi a terminare il passaggio, là. C'è anche il Natalino, va avanti Natalino. D'accordo, riprendo io di nuovo, vai, e rimetto il microfono a Claudio, vai qua, per Eugenio. Ciao Eugenio, buonasera, ben sentito, cordialità e saluti, ho visto il messaggio, sì, ma l'estrattoraria come hai fatto a misurarla, con l'altro baracchino? Ah, Marco mi richiede, a Marco Condor, Marco ci sei? Sì, Giuseppe forse è quello, forse Giuseppe di Alghero, un attimo Giuseppe, se sei tu, ti ho appena sentito, ti faccio entrare subito. Sì, i primi del nome ce ne sono diversi, ci sono quelli che sono multicanale, ci sono quello normalissimo omologato OEG, per cui poi ce ne sono cromati, ce ne sono mecciate di nero, insomma ce ne sono diversi, ce ne sono col frequenzimetro, ce ne sono senza frequenzimetro, solamente smitter normale, canale normale, insomma diciamo che c'è una certa varietà di 3009. Dai, iniziamo qua, mi metto a te, forse ho sentito Giuseppe D'Alghero. Non so, chi è avanti? Sì, lo sento, è lui. Attento Giuseppe, sei tu? Forse a me non mi sente, Claudio, tu lo puoi sentire, dai. Sì, non lo so se Giuseppe, anche a me ho sentito, ma mi è arrivato basso. Sei tu Giuseppe? Ok, ciao, buonasera, ben ascoltato. Lo senti a Giulio? Riprendi giù. Ok, sì, era lui, sì, no, ma io a lui lo sento, è basso ma lo sento. Io sto uscendo con 4 watt appena, per cui non credo di riuscire a farmi sentire da lui. Va bene, non so cosa dire. Pazienza, dai, e poi anche l'antenna sempre bassa, per cui va bene così. Poi in estate si penserò a metterla a posto, anche per fargli un po' di manutenzione. Riprendi qua. Sì, ma ce l'hai bassa l'antenna? Sì, io ce l'ho sempre bassa, 2,30 m, 2,50 m massimo di tubo, niente di più. Ma dovrò fare un po' di manutenzione, in estate glielo farò. Così va bene, perché va bene, però è meglio sempre tenerla sempre bella efficiente. Scusa, io ho sbagliato il microfono, come sempre. Beh, meglio così. perché devono essere sempre efficienti, sennò poi è un casino. Ok, Eugenio, avanti, riprendi. Ti stai ordinando il 3009. Vabbè, se te lo vuoi ordinare nuovo, prenditelo. Io non avevo comprato un nuovo barattino, poi non so, quello dipende da te. Se però te lo vuoi comprare nuovo, va bene lo stesso. Allora mi dia il ruolo. No, ma certo, gli giro nuovo, ma nuovo o di seconda mano? Capito, la parola, guarda che un baracchino che costa intorno ai 180-190 euro, quello normale mio, e 220-215 quello multicanale, cioè è adatto anche per l'Europa intera, cioè con 10 bande. E boh, 40 watt tra l'altro, anche, quello magari evidentemente è quello normale, omologato e ciccia. Vabbè, riprendi oggi. Qual è? Sì, quali sono le bande, vabbè, ma altre frequenze, quelle che ti stavo parlando io a 10 bande addirittura, che parte da 25 mega fino a 30, 30 e qualcosa, ma quello è tutto un altro discorso, quello è pluri canale, no? Cioè pluri europeo, in poche parole, va bene in qualsiasi nazione europea, va bene, per cui quello costa di più, ma non tanto se ne va niente, tanto quel canale non c'è mai nessuno, non c'è più che ci va, nessuno. Dai, rilanciamo per Giuseppe. Giuseppe, non so se mi ascolti. Giuseppe, mi senti? Giulio, un attimino. Buonasera a tutti. Eugenio, che apparato è? Solo 110 euro, ma versione omologata, versione o versione, come si chiama, multicanale, nuovo o usato? Caspita, per quel prezzo è incredibile, prezzo incredibile, assicurati che sia nuovo, cioè che dia garanzie, no? Che sia nuovo, capito? Quello è prezzaccio proprio. Guarda, oggi tra i veicolari, secondo me, omologati, quello lì è uno dei migliori in assoluto per la 27. Dunque, se ti piace, se sei interessato, prendilo al volo, perché per quel prezzo, guarda, è veramente un prezzaccio, proprio buono, a metà prezzo praticamente, prendilo o non ci pensare due volte, se sei interessato o non ci pensare due volte. Vabbè, dai, devo uscire, vi lascio adesso, dai. Riprendi tu Marco, io vi saluto, dai, devo uscire, anche perché poi faccio l'abbattore, adesso devo uscire con una persona che è giù che mi sta già aspettando, che ha già suonato un campanello, cioè il clacson della macchina. Ciao Marco, ci sentiamo le prossime, accendete la raucide. Ciao Eugenio, ci sentiamo, ciao Claudio, alle prossime, salutatemi Giuseppe, ma io lui non mi sente, io a lui sì. Avanti classe, ci sei, ascolto finalino, poi chiudo velocemente che devo uscire. Assolutamente sì, sono qua. Ciao Giulio, grazie del due chiacchiere. Ci ascoltiamo alle prossime, noi siamo sempre qua, lo sai, quindi quando vuoi ci trovi qua. Avanti Marco. Ehi, ciao Giulio, ben rientrato dopo tanto. Alla prossima, dai. Ehi, accertati Eugenio che la restituzione sia accettata se su eBay. Per sicurezza, perché quando mettono restituzione non accettata, puzza un po', capito? Sta già acquistando, dai, va bene. A dopo Claudio, sono ancora stato bravo, ho fatto solo una saldatura, mi stavo facendo la saldatura. E così faccio le prove dopo. A dopo, ciao. Saldatura di che cosa? Oh, quel puntale di antenna che... appunto con l'apparecchietto omologato non ballava sempre, capito? L'ho allungata, non in larghezza, proprio in lunghezza, gli ho allungata un po' la saldatura del PL, e quel baracchinetto mi sta scocciando, se potessi spingere le lamelle del baracchinetto sarebbe meglio, le lamelle della bocca del PL, del PL femmina, delle SEO 239. Gliela avrei strette un po', così accoglie meglio il centrale del PL. Però viene male, è un casino, ciao Natalia, a dopo, dai, ciao. Ciao Marco, ciao di nuovo a Giulio, vediamo un pochino Giuseppe se riprende, se non riprende tu Natalia. Stai arrivando basso anche tu, Giuseppe. Natalino non ti sente e tu non senti a lui, quindi non ci sono motivazioni, lui c'ha un'antenna piccola e tu lo stesso, poi siete troppo distanti. Avanti? Ciao Massimiliano, ti stavo per chiamare, non devi salire, no? Quella roba non te l'hai messa in macchina, per metterti quella roba in macchina, te la devo far vedere. Vabbè, mettitela in macchina che devo farla vedere, capito? Devo farla vedere, dai. Aspetta, sto facendo una cosa. Devo farla vedere. Va bene. Avanti, c'è Natalino. E quindi tu Massimiliano, c'è Natalino. Io, poi c'è Giuseppe D'Alghero che però sta arrivando molto basso oggi, non so perché. Mi prendi? Ah, Eugenio, lo vedo Eugenio, hai pagato a tutto. 110 euro, ho detto compralo subito perché è un affare nuovo. Nuovo, non usato, nuovo è un affare, caspita, costa più di 200 euro. Ma infatti ho detto prendilo al volo perché è un affare, minchia. È un affare a quel prezzo, veramente, un grande affare. Per la verità fa anche il caffè espresso. Ciao Sandrino, ben ascoltato, buonasera. Buonasera popolo, buonasera. Ho detto che quel Connes 3009 fa anche il caffè espresso. Buono, buono, allora si fa il caffè. Valerio, tu sei? Sì, è sopra la scatola. Ciao Valerio, buonasera, ben ascoltato. Sei in compagnia mia, di Massimiliano, Sandro, Eugenio, Natalino, che non senti, e Giuseppe, mi pare ci sia l'Alghero, arriva molto basso, non so perché. Io un attimino mando avanti a Natalino e vediamo se ti sente Sandro. Natali adesso, vai. Natali, hai sentito Sa? Nada. Nada, ancora non arriva, vabbè, ho fatto un'altra modifica, ma non arriva neanche così. Vabbè, qua ho aumentato parecchio. 5 dB, 9,5, 9,10. Evidentemente è proprio la zona che non mi permette di transitare nei tuoi confronti. Va bene, va bene. E prendi Massimiliano, cosa stavi dicendo allora? La foto quella che hai mandato a me, perché c'è l'altra, non si può comprare. Vabbè. Vale, riprendi? Non c'è Marco, c'è il tuo paesano, rilancia a lui. Claudio. Dimmi Sandri, non gridare Giuseppe, non gridare, parla piano, dimmi sa. Allora, sto portando il 44 per la batteria, ma qua è un casino. A parte la scheda al libro, c'è l'altra scheda sotto, a me mi sembra che voglia tolta anche quella scheda. Cosa? È dietro il frontalino, non è facile fare quella radio, te l'ho detto. Ci vuole molta, molta pazienza, è dietro il frontalino. L'ho vista, qua. L'ho vista, è dietro la scheda libro sollevata, l'ho già vista, soltanto che sulla base sotto c'è una piastra lì tutta sagomata e c'è l'altra scheda che è proprio aderente, come hai fatto già la presentazione? Un po' di pazienza ci vuole, piano piano c'è da fare un grande lavoro lì. Un grande lavoro, io l'ho visto fare, capito? Per quello che ho detto, l'ho visto fare, l'ho fatto Massimiliano a me. E quindi, perché il 140, il 80 è facilissimo, è sopra come il 711, l'811, quella serie lì, insomma, dai. Però il 440 è più difficile, ci vuole molta pazienza, saldatore buono, perché la devi disaldare, devi stare molto attento. Sì, beh certo, c'ha le linguette del positivo e negativo, e poi è normale che vuole disaldata. No, è per togliere il coperchio, per arrivare da lei. Sì, c'è la scheda, a parte la scheda libro, te la prendi e la sollevi tranquillamente, poi c'è un'altra scheda sotto, vuole tolta anche la scheda di sotto. Tutti e due i coperchi li hai tolti? Positivo. Non riesci a, perché il frontalino c'ha le guide che si abbassa, non riesci a, a farti spazio abbassandoti il frontalino? No. Hai presente la scheda, la prima scheda, quella libro, la prendi, togli le due viti, la sollevi, sotto ancora c'è un'altra scheda. Il, la protezione, quella mirino protezione proprio dove c'è la, la batteria, non vi è bene perché c'è l'altra scheda sotto che tocca, non, non c'è spazio per poterla perché si arromanta e non c'è spazio per poterla togliere. Bisogna togliere anche l'altra, l'altra scheda. Sì, l'altra scheda è staccare, anche mi pare ci sono due o tre spinette. È un lavoraccio, non sapevano dove metterla quella batteria, non sapevano dove metterla, proprio lì sotto dovevano mettere tutto lo spazio che c'è. Un casino, sa, stai attento, piano piano, se te la senti farlo, se no bisogna farlo fare, No, ce la facciamo piano piano, eh. Con un po' di pazienza la facciamo, eia, va bene. Ciao Valerio! Certo che sì, la tua è già stata cambiata, no, anche quella che c'ha Giuseppe, quella l'ho cambiata io, facilissimo a cambiarla, quella del 70 e 140 è facilissimo, quella del 440 l'hanno messa in una posizione allucinante, e gli ho rubati, piano piano, Massimiliano, ehi, è nata lì, non lo prende più nessuno, va bene, Giuseppe vieni avanti. Abbiamo capito, siete tutti e due impegnati. Giuseppe, vieni avanti. Buonasera signori, buonasera per tutti. Ascoltato, cosa vuoi capire? Chi c'è qua? Buonasera per tutti allora. Ciao Gottà, buonasera, ben ascoltato. Ti mando avanti Valerio, vai Valerio. Positivo, ciao Valerio, ben ascoltato. Io qua lo stesso ti ascolto un segnale 5-7 oscillante, dai, tutto a posto. E beh, Claudio, lì sulla che è entrato capo Unni. No, te l'hai unito, già entra tutte le sere, sempre veloce, però già entra. Tu lo sai che io sono qua a salutarmi, a darmi le coordinate, si è andato tutto bene, tutto a posto, capito? Ma sono più grande di te, mi devi dire c'è tutto a posto. E io so così vedi di gallura, ma fu più di non ti vede nessuno. Adesso rilassati tranquillo, poi ti fa una bella doccetta e si tira avanti, non problema. Vediamo un po' più, Natalino l'ha impegnato, Sandro? Io faccio il travaglio pericoloso, oddio, molta attenzione ci vuole, molta attenzione, a me me l'aveva cambiata un amico, capito? Perché di altra già è facile, ma quella è messa in una posizione così balorda, è allucinante. Vai Natalino, vediamo se ti ascolta Costanzo adesso. Ehi Natalino, buonasera, io ti sento, segnale 3 Radio 5, qua la parte tua tutta a posto. Gioco i rubinetti, i rondelli, i bulloni, capito? Avanti! Oh, Costa, vai per Alghero, vai! Ehi, a Valerio, e allora come si dice a quelle parti? Il mare è calmo e acqua ce n'è. Positivo Caparrogino, quindi io appena rientro a casa, bruciato, sono salito a vedere se c'era qualcuno a farmi saluti, che su quanto la pigliamo. Positivo Caparrogino, riprendete la Claudia. Perché non ce l'hai dentro casa la radio? No, negativo, ce l'ho, capito, in posizione strategica e tocca a me spostata. Ah, poi scelto di far capire un bel, ho capito dove ce l'hai. Ho capito io come facevo io la mamma, la stessa cosa ce l'avevo su, mi ammassarla, capito? E quindi a tradio mi rimanevo in chivi, invece mi fumavo una sigaretta qua, a casa non si fumava, e vabbè. Positivo, è così tocca fare a me, capito? Ora scusa per le pelle, ti 10 minuti di radio, salutiamo gli amici e poi andiamo a mettere a pelle sulla tua. Sai, se sei comparere, compare già pure qualche cosa per me, per sempre qualche cosa che posso servire. Vabbè, non sarà la sarà che cosa arriva, io mi accontento. No, Massimiliano, lo sai, aspetta, non ti nascondo niente, avevo dato tutto, tutto perché era tutta roba vita, sì che non mai faccio assolutamente niente. Nulla, gli ho fatto uno spostamento, lì dove c'erano le voglio vicino alla finestra, ma le ho messe davanti, capito? Così le voglio usare un po', giusto per farle andare, quando capita salutare qualcuno. E basta. Il resto, Massimiliano, usai tutta roba in uso ancora, la roba che non usavo l'ho tutta data. Bene, Massimiliano, sì, mi dà una mano. ragazzi, tutta la congressa del 30, una volta lo scattolone, non c'è nessun problema. Andate a caricare chissà cosa invece. In settimana vengono a vederlo. Massimiliano, se dovete sapere una cosa, che c'è sempre il numero uno, non glielo cambia nessuno, capite? Tutti gli altri vengono dopo, tutto di Lago, tutto, pure a Filippo, se siamo un canimo, cioè, hai compreso questa? Ma tutto però non con Lucani. Ma non ti devi venire il pacchetto completo, tutto o niente, prendilo o lasciare. E vi ho detto, moglieri, cani, figliola no, già si arrangia. Tutto, tutto mi scrive i nocchi e lo cano lui. Ma allora il pacchetto non è completo, qua c'è il gatto cicotta. E io c'avevo le cuffie, questa mano hanno fastidio, non sa per me cosa uscendo, com'è? Bella è questa, bella è, facciamo i soldi? E dipende, se è forte di tassa, ci vuole prendere. Ehi, 200 sciacchi e si è a posto. No, 200 sciacchi di microfono rimane qua. Microfono, 39 euro e 5 pari di nuovo. 2 più 4 costa 40, 45 euro. Positivo, ma io sono dato tutto assieme, non tutto assieme a niente, Claudio. Lo 250, compreso il microfono. Positivo che a Marroggi, non la siamo a ragionare. Vabbè, non sapevo che darvi anche il microfono, capito? Va bene, va bene. Senti Valerio, per la modulazione, ecco, il Saturneco che c'ha costato. Mi attizza, ecco. Oh, Giuseppe, vuoi fare un affare? Allora, ti diamo un Saturneco grande, base, a 220, col microfono da tavolo, così non sbagli, pesci perfetto, canali quanto mi vuoi, bande laterali, anche il caffè. Mi dai i 680, ci stai? Corre, vattene a torre RPT. Ti ho detto che ti do un Galaxy Saturneco base, più grande di quella, bella, più bella di quella, e tu mi ritorni quella. E allora, passo per passo, alla grande te lo consiglio, almeno sei tranquillo, almeno sei tranquillo, tanto quella mi sa che ti sta creando solo problemi, almeno esci bene, cambio per cambio, certo che sì. E allora ne parliamo, va bene. Soltanto, hai fatto un affare, sempre male stai uscendo tu, con quella radio, no, no, non mi piaci, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, capito? Facciamo questa operazione, non se ne parla più. Allora, così la riprendo io con la radio e vedi che la mettiamo subito a correre. Controlliamo se è quella, controlliamo se è quello, capito? Ok, se è quello si mette a posto, se è altra roba si metterà a posto, ma così non si può andare avanti, Giuseppe, è un casino, capito? Avanti a chi tocca, riprendete un attimo, devo rispondere al telefono. Che cosa c'è? No, mi ho perso qualcosa? Non va bene, lo scambio. Scusa, si può fare lo scambio? Ma la radio che c'ha cosa il 680? È quella che hai usato tu, mi? Non capito, ho capito. Vabbè, adesso vediamo. Mo vediamo, va bene, va bene. Avanti a chi tocca, io, parlate però, cazzo, se no può parlare sempre io. Dai, che mi devo allontanare un secondo a dare a mangiare il cane. Positivo Caporroggio, non vai, niente, qua siamo. Chi c'è rimasto? Ma Sandro, a proposito, che avevo sentito, cosa hai con me? Sandro, non che dire. Ciao, per lo bene, adesso mi sono liberato, no, sto facendo un'operazione. Sto cambiando una piccola batteria qua, abbiamo tolto il più l'abbiamo tolto, adesso abbiamo individuato la batteria, adesso mettiamo la batteria, tutto lì. Ciao, per lo bene. Ciao Sandri, dai, allora, stai attento, soprattutto non andare correndo, no, non so mai che fu, più o meno tutto affari. No, non c'è problema. Ho sentito mentre che stavo facendo qua, ho sentito che qualcuno mi ha dato un consiglio di metterci una valvola, ma le valvole che ho, c'era un po' di valvole, rimanenza, di magazzino, ma non ci stacca, è troppo grande, peccato, perché sennò gliel'avremmo messa, la mazza. Non c'è problema, non c'è, ma ricacciaviti, lasciamo a te. Sì, Massimiliano, ce l'ho già la batteria, e adesso piano piano bisogna salvarlo perché c'ha le linguette, lasciato le cavolo di queste e bisogna aspettarsi piano piano, perché qui se no poi casino. Aspetta, ti mando una foto, ti faccio vedere l'operazione qua, la batteria. Sì, ci abbiamo tutto già organizzati. Signori, io vi saluto, dai, ciao a tutti, ciao a tutta la ruota, buonasera, buona continuazione, ci sentiamo, dai, ciao a te, ci aggiorniamo. Aspetta un attimino, Claudio, andiamo a portare a Filippo. Oh, Costa, te l'hai fatta l'iscrizione lì alle Olimpiadi? Alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi. Ti ho inviato l'iscrizione. E a quel modo lì ero già iscritto da parecchio tempo, lo sa, si è arrivato in ritardo. Carità. Dai, ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao Valerio, ciao Eugè, ciao frate, ciao Sa, ciao Claudio, se mi senti ci sentiamo. Ciao, Sandro, mi senti? Noi siamo io, tu, Claudio è sceso giù, Ti avverrà subito. Avanti, avanti. Allora, cosa vuol che ti dica? Sempre qui, ma parendovi, si sta facendo la balbucchia. Ci sono discorsi in città mercato, oggi andrà a cercare copertoni per la macchina. Questa cosa non lo so, ma comunque ci sono discorsi, ho visto. Allora, periodo. Io lo credo, giallo. Cattarino, cosa stai facendo? Chi si è saluto? Non saranno. Di notte bisogna farlo di notte, quando sei bello calmo, senza stress. Tutte le ore, dipende, guarda che a Pescara sollevi più, già lo sai, già che vai in campagna, sei tranquillo che sollevare più. Ciao Claudio. Sì, sì. Claudio. Dimmi, ciao. Ok, operazione conclusa, porta fuori. Ascolta, solo che non c'è sintonia su questa batteria. Cos'era? Tre volts, giusto? Mi pare di sì, sì. Non c'è scritto niente sopra. No, no, no. È piatta, non c'è neanche più e meno un piatto segnato. Non c'è neanche più e meno, allucinante, che era sì, tutta roba ginissa. Sì, ma scusa, non te l'hai segnato il filo prima di attaccarla? Non ho segnato il filo. Quale filo? No, ci sono due puntali. Due articine dove è saltata lei le linguette della batteria. Soltanto che come l'ho tolta, va bene, adesso l'ho fatto una foto. Soltanto che nella batteria adesso bisogna capire se il positivo è sotto o se il negativo è sopra, e non c'è niente sulla batteria. Guarda nella radio, non c'è scritto niente nella radio. No, non c'è scritto niente, c'è tutta una scheda. Escono due puntali sopra la scheda, dovrebbe essere tutta la scheda del frontale, lì è due puntali ed è saldata lì. Che strano, io l'ho visto a fare ma non ho visto cosa saldato, cosa di saldato. Ho detto una fesseria. Non so se c'era il manuale. No, no, il manuale mi sembra che non ce l'ho, il manuale mi sembra che non ce l'ho, no, no, no, no. Tu ce l'hai, Claudio? Ma cos'è il manuale del Kenwood, eh? Cosa? Sei il manuale del Kenwood. E io? E allora ce l'ho io, 640 ce l'ho io il manuale del Kenwood, ce l'ho con la... qua, come si dice adesso? Con lo schema elettrico. No, è 440, non è 140. Ebbene, se le batterie non sono uguali, secondo me. Comunque, se la batteria che penso io, tipo quella degli orologi, dovrebbe essere il più sotto e il meno sopra. Ehi, ciao Antone. No, no, infatti l'ho tolta, ho guardato un attimino anche con la lente, ho guardato, ma non c'è niente sulla batteria. Di solito ci dovrebbe essere più e meno stampata sulla batteria. Su questa non c'è. È una batteria tipo quella delle, come ti ho detto io, delle orologi, che poi montano anche, come si dice, quella per pesante elettronico, montano le batterie così, sono tonde e larghe, so. Il meno è, infatti, il più è sotto e il meno è sotto. Sì, Antonio, sono quelle piatte, sì, sì. E allora c'è poco da sbagliare, insomma se prendi il tester, anche se mezzo scarica te lo segna, più e meno, comunque è come ti sto dicendo io. Stamattina ho visto a cosa, là, al Conti, a Gianni Giovacciole. Oh, non penso, non lo credo. Aspettate un attimo, sto facendo una cosa, sto attaccando il microfono, andate, se no mi casino, un minuto, riprendo subito, riparate voi però, cazzo, io devo parlare sempre io, Ma se non parla mai, questo è un attaglio, parla sempre con muro. Con muro, parli tu, vecchino. Messina di Antonello. Ciao. Ancora la Becchino. Come è stato Becchino, sei diventato con i Subic? Cosa sta facendo Bacimento, Antonello? Buonasera a tutti quanti. Ciao Bacimento, non ti ho ascoltato. Ehi, altro, ciao Bacchino, saluto di presentita. Se fossi Becchino sarei stato con i di là. E invece non lo so. E a Bacimento la che c'hai? Ehi, ho dovuto staccare l'integrato perché mi sei neanche cotto un piedino. Ho staccato il piedino di massa e il cotto non lo fa più. Come metto il piedino giù alla massa, mi sei neanche cotto. Dopo il piedino, in pratica quel piedino c'è attaccato il condensatore, che è nuovo, glielo ho messo, l'è piazzato giusto. Poi ci sono due fili verdi, uno va al re della portante e l'altro va alla... come si chiama? Adesso domani mattina devo staccargli l'integrato, glielo cambio, perché sono paura non sa che magari sia l'integrato diverso. Adesso mi cercato dove ho messo quello originale e vediamo un po', perché se mi ha dato l'integrato sbagliato non te ne devo piazzo, capace che sia quello. Perché mi sembra strano che sia messo al contrario, anche perché se fosse stato messo al contrario non avrebbe ricevuto segnale, e invece ce n'era, riceve. Basso, cioè la parola sale, selezione e discezione, però non c'ho audio, come attaccavo l'integrato non scalda più. Vai, lo leggiamo domani, guardiamo un pochettino se me la sorteggiata. Era una fesseria, mi interessava se era anche una fesseria. Tutto li ho controllato, tutto quanto. Sì, Antonio, ne abbassa giù la Falcone, però. Ci sono anche gli altri che devono parlare. Prima di la mente che la parla nessuno, poi quando parlo io faccio passaggi lunghi, te la metti anche per quello. Avanti un altro. Avanti, da lì. No, non senti, no, chi stava parlando, non sente nessuno. Ah, così è. Vabbè. Facciamo girare. Massimiliano. Ha chiuso. Poi chi c'è? Sandro sta facendo la batteria. Natali. Ok, poi chi è che c'è rimasto? Riprendi, riprendi. Chi è l'altro in paramobile? Oh, Marcolini, riprendi, dai. Riprendi e fai girare. Sono qua. Ah, ok. Va bene. Siamo qua, noi, non c'è problema. Riprendi, Antonio, non ho capito ma con chi stavi parlando. Fai girare. Cava, cava. No, ci fai la cola, vai alla coppa che costa di meno. Ah, non è roba alimentare che hai comprato. Ma c'è il masso adesso, cosa è successo? Santiago 2, sì. A meno che non sia entrato nei parcheggi interni. Avanti, Valerio, Sandro, tutti i pariti, so. Cappa, va bene, siamo qua. Succedeva che dovevo resettare, andare sui 14 e poi andare sulla frequenza normale. Invece adesso l'ho acceso e sono rimasto per dire 27.085. Mio bene, quando la spegni se rimane 27.285, se no te la incontro lì, non lo so. Guarda, io con la radio ti posso dire il 440 non l'ho mai toccato. Una radio per me è troppo complicata. 140 sì, 80 sì, ma quella no. No, perché prima quando accendevo, ogni volta che lo spegnevo, l'accendevo dovevo resettare. Adesso l'ho acceso, l'ho dovuto resettare. Non l'hai resettato? No. Come l'ho acceso mi ha passo subito la frequenza del 10. Non va così, non si è contro la batteria, stava creando problemi. Provala così. Provala così, capito? Però la devi provare a freddo, quando la accendi. Aspetta un attimino per la collega, là. Grazie. Claudio? Eia. Ok, vediamo un attimino. Vabbè, sarà freddo, Sì, sarà freddo, ma il problema devi vedere se ti fa quello che ti faceva prima, allora è risolto, se no non è neanche la batteria. A me non rimaneva la memoria, le ho cambiato la batteria ed era a posto. No, come l'ha fatto? Come l'ha fatto? Perché ogni volta che lo spegnevo, mi accendevo, dovevo resettare. Adesso l'ho fatto un paio di volte. Ho fatto un paio di volte e niente, sul canale che ero è riapparsa la pressione, invece prima dovevo sempre resettare. È strano, sì. Che va di bene. Ora. La modulazione va bene, pari? Sì, mi sembra che va bene. E allora non lo so. Se va bene così la batteria non ce l'ho ripetuto. Vabbè dai, fammi vedere un attimino, facciamo un po' di prove, vediamo un po'. Come fa tu, Cervani? Perché è un mistero quella radio. Io non mi tenevo le memorie, ho cambiato la batteria, ma ci ho canta e ne è andata bene. Chissà, rimuovi la batteria e te ne mantessi le memorie. Non lo so, ti dirò un'altra cosa. Sono andato a controllare un attimino i canali che mi avevo memorizzato e ce li ho, mi appaiono diciamo i canali che avevo memorizzato. Ma parità, non lo so questa batteria cosa possa servire. La batteria al litio serve per le memorie quella. Scusa, cosa deve servire? Serve per le memorie. Tutto il resto è un'altra cosa. Un mistero che avrà di due ieri. L'apparato che sto usando. Mi sembra strano, claro, perché non c'è batteria, adesso la batteria le ho colta. Come ti ho accennato poco fa, tutte le volte che lo accendevo lo spegnevo dovevo resettare. Adesso l'ho fatto un paio di volte, spento, riacceso e rimane sempre nella stessa. Che precedentemente questo non succedeva, dovevo sempre resettare. Sono andato a controllarmi le memorie, i canali memorizzati e ce li ho. Non lo so. Aspetta, guardando una cosa, l'avevo segnata. No, Eugene, cosa stai dicendo? Se lo tieni spento un po' e poi perde la memoria. Cioè la batteria sappiamo benissimo che è una fonte di alimentazione. Scusami. In questo caso mi è scomparso un problema che avevo lì fuori, che non sia la batteria esaurita e che mi faceva e che mi procurava qualche contratto. Adesso vediamo un attimino, adesso una volta che lo spengo lo faccio raffreddare, vediamo un po' se, se è uguale oppure se... non lo so. Non c'è, è senza batteria adesso. No, te lo devo fare subito, il discorso della comunicazione del canale, capito? Te lo devo fare subito. Vabbè, adesso vediamo. Che ce l'ho tutto quanto aperto, li voglio mettere almeno in coppia, chiudilo, ovviamente. Avanti, chi c'è rimasto sul canale 10? Massimiliano, dove è andato? A faccia la luce. E Antonello, qua c'è Antonello. Eia, non ti capisco. Che paragnotta che c'è. Stavo scherzando. Ma ti pare che è Antonello. Cioè, ti dico se ti posso dire a te, no? No, ma no, perché quando non c'è nessuno là, qualcuno viene qua, capito? Mi gira un bel ballo e quello. Stavo scherzando anche io, lo sai. Oi, oi. Ti ho detto che tu sei da una parte all'altra io. Grazie. Stavo cercando la cosa, ma non c'è Marino, Donzino, in PMR, per e già due giorni che passa e l'ho ritrovato perché sono in giro per fare le cose fogliistiche e l'ho già passato domani mattina che sono a casa stamattina invece non c'è per me stasera. Vabbè, magari già mi telefonerà da lui andare. Tu sai che abbiamo fatto una denuncia scritta, no? Conoscenza al signor sindaco e all'ufficio manutenzioni, esattamente, guarda del vano. Ho fatto io personalmente, ho fatto anche sopralluogo stamattina i carabinieri, ci sono i rami che sfoggono le marciapiede, tutti con le spine, tutto pieno di rovi, capito? Passa anche uno di si fa di giro. Se passi qua, invece è già due giorni. Se vengono i vigili urbani dalle 8 e mezzo fino alle 10 e incominciano a mettere multe una presa all'altra, come là c'è uno l'hanno beccato col cane passeggiando, beh, fottuto l'anno. È già due giorni che ci hanno pigliato quel vizio e evidentemente qua si è mandato qualcuno, non lo so, e ci sono i vigili tutti i giorni. C'è la vigilia stamattina fischiando, gli ho detto cazzo è tra le 9 del mattino, mai li ho visti, mai, solo a bere venivano. E allora vai quando vado io agli 8 e mezzo al Conti, vai, sulla destra. Iniziano dalla dove c'è la rotonda sino a giù, tutto pieno di multe. E fanno bene, perché sono incivili, hai capito? Sono incivili, ti trovi un posteggio, ok? E vai a piedi. No, tutti con le macchine in doppia fila, tutto un casino lì la mattina dove c'è il Conti. Non si può posteggiare, perché la strada è a due corsie, capito? Fatene re. No, noi direttamente ai carabinieri. Guarda, cioè devono venire a pulire perché altrimenti succede un casino. È un bel pericoloso quel marciapiede. Tutto pieno di rovi, di ugna e spina. Io un giorno al buio sono passato, mi sono dimenticato, c'era il vulcano e mi si è aggantato lo giubbotto, ma era tutto infasciato. Capito? Maledetti cani morti che non sono altri. Volo mio Marino. E poi quando la mattina arriva il camera modesta che scarica i cassonetti, mi ripara, mi dà della roba in terra, prima c'erano gli operatori, adesso operatori non c'è più perché c'è questo coso automatico, e tira dritto, adesso tutta la modesta in terra, capito? Ah, allucinante, cioè di stato di abbandono questa strada, mai l'ho vista così, mai e poi mai, guarda. In tanti anni che io abito è stata sempre curata veramente e tutto, adesso ogni distacco di abbandono. E guarda che anche via Cabolatti è la stessa cosa, ho visto stamattina tutte le buste in terra, però c'è un tipo che passa verso le 8 e mezzo delle 9 con la moto carrozzella a casa e tutti i cassonetti a me. Toglie le buste, le appoggia in terra, capito? Piglia, c'è il caffè, roba del genere, lo prende e andata, l'ha fatto in chimilas. Sì, già l'ho visto anch'io quello Mazziano, glielo ho detto all'operatore ecologico, glielo ho detto, perché ha trovato tutto il colato, siccome passa la mattina lo spazzino chiamato così, e pulisce, la verità, lui pulisce, c'è i cassonetti, raccoglie le foglie, raccoglie le parole, ma c'è piedi, non li può pulire perché non si possono pulire, è tutto pieno di rovi, è tutto pieno di rovi, capito? Sì, già l'ho visto, già l'ho visto. È un casino, è diventato adesso questa zona qua. Ci passo spesso, capito? Perché a volte taglio per andare a prendere a Daniele, capito? Taglio di vicino a te, in pratica. Ci faccio prima arrivare vicino alla chiesa, se devo fare il giro al contrario. carità, che qua con mia ragazza. Allucinante, una cosa vergognosa, guarda, non viene bene a dirlo. Dopo. Avanti, oggi. Come mai? Non c'è niente da mangiare. Ah, così è. Va bene, va bene. Vedere, c'è qualche messaggio qua. Questo è sempre la batteria. Va bene, va bene. Ok. Vai, mi due. Chiudilo bene, sa. Chiudilo. Però se devi rimettere la batteria, poi tocca riaprirlo, va bene. Vedi un po' tu. Mi sto osservando io. Bisogna che faccia la prova. Adesso la staccata la batteria, gliela rimette. Poi prende, spegne l'apparecchio, riaccende, si rifà la stessa cosa, vuol dire che con la batteria c'è fabbrica problemi. E quindi la conta nuova, la GBC gliela piazza nuova. Sì, ma non ci vuole molto a prendere un tessere e controllare se la pressione c'è. Non ci vuole molto. Ma per controllarla, adesso non mi ricordo se deve dare le borse 4,5, poi ce n'è un bel con le batterie, c'è anche la 6 volts, non lo so, non mi ricordo quella 711, mi pare che era 3 metri. Scusa un attimino, Antonello. Ok, dimmi, brava. Questo tipo di batterie qua, quelle con le linguette già stampate sopra, Tonino Fusaro ce li ha? Tonino Fusaro, Tonino è GBC, Fusaro, già ce li ha Fusaro quello lì. Ce li ha anche Tonino, ce li ha. Ho capito. Va bene, no, perché io ce n'ho una, però senza linguette. Senza linguette, quindi niente, dai. Adesso vediamo un po' domani mattina come lo provo a accendere, vediamo un po'. Che se stesso l'ho spento un attimino prima di chiuderlo, l'ho riacceso e la frequenza rimane sempre in quella che era. E in questi giorni se riesco passo la Torino a usare se l'ha presa con le linguette. Vediamo per l'altro. Misurala, sa, misurala, guardala quanto è. Prendi il tessere positivo, negativo e guardala quanto è e quanto ti dà, guarda, per se scarica. Solo che adesso il testa non ce l'ho al momento. Perché se la batteria la tensione ce l'ha, vuol dire c'era qualche falso contatto, capito? Gliela ripiazzi, mi pare sia 3,5, una cosa del genere. Non me lo ricordo esattamente, non ti voglio dire balle. E controllagliela, ti vedi un pochino. Guardala quant'è, capito? Guarda nel manuale del 140, tanto è, tanto sono tutti uguali. Da quanti volt c'è quella batteria? Adesso mai no. La voglio un anno, aspetta che c'era uno che mi ha fatto la pernaccia, avanti, brutto bocco. Tutti ho fatto commissioni da Conad, adesso andiamo con la vecchia, andiamo da America a ritirare. Te lo stavo per dire, cazzo, capisci che si toccano sì. Soprattutto mi taglia i fondi. I fondi ti taglia, il fondo ti taglia, non i fondi, no? Chi è che chiama? Avanti. Forse è andato a mangiare, Valerio, sono le 7:20. Non so. Come? Non ti mangiare il microfono, Giuseppe, che non ti capisco. Cosa hai detto? Allora, parla piano piano, cosa hai detto? Non ce l'ha il tessere, Sandro. Non ce l'ha, capito? Quindi no, non può provare. Sì, adesso ti capisco. Non ti preoccupare. Guarda che io lo so, problemi non ce ne sono. Tutto capo di Roger. Cioè ti ho capito Giuseppe, ti ho capito perfettamente. Non sei un ragazzino, quindi io ti capisco perfettamente. Lo so. Le cose arrivano tutte di colpo, io sono mezzo e mezzo a casa, figurati. Ne ho 30 meno di te, capito? 30 meno di te, quindi. Però mi ha fregato anche a me. Adesso da domani inizio nuovamente a riprendere il lavoro, capito? Perciò stai sereno e tranquillo. Penso proprio di sì, anche perché mi hanno già confermato che devo andare in un'altra zona, a coprire una zona, perché c'è un casino di Gesù Cristo, quindi non sono neanche nella mia zona, però grazie a Dio le conosco tutte, quindi non ho problemi. Perciò sarà un inizio settimana abbastanza travagliato. Poi, tanto sempre alle 2 ma devo andare giù, se non frega niente. A quell'ora mollo tutto e me ne vado. Quello che ho fatto è fatto, e quello che non è fatto rimane senza fare, ma me lo immaginavo che mancando, perché non manco solo io, ne mancano diversi, si accumulava il lavoro. Comunque domani già mettiamo tutto a posto. Beh, Antonello lo sente qua vicino a me, vai Antonello. No, sta cercando nel manuale del 140, sta cercando, capito? Che sei convinto che quell'apparecchio? Ma quale, quello che ti ho detto io, il Galaxy? Beh, certo che ho un quell'apparecchio. Io l'ho avuto per anni quello, ma per anni, anni, anni, capito? Mi è sempre andato bene, mi bisogna metterli un bel microfono e basta. Però ti ripeto, per agevolarti, perché sia un po' più facile che tu possa usare la radio, quella è un po' più complicata, bisogna trovarne una un po' più semplice rispetto a quella. Il segnale 9, sto arrivando forte, però la radio è molto complessa, bisogna microfono normale, in quella radio non è che vada bene. Ci vuole microfono uguale a questo e devi uscire così come sto uscendo io. Il problema è che non riesco a procurarlo, ce li fanno pagare maledizione, capito? Sto cercando sempre, se ne trovo qualcuno usato buono, però oppure fare cambio MC80 con 60, capito? Io non ne ho altri 60, se no mi avrei preso l'80 e avrei dato 60, io ne ho due, sono tutte e due, tra l'altro uno è Kenwood e l'altro Icom, come connettore, capito? Se no te l'avrei dato volentieri, ma avrei preso l'80, non mi cambia la vita a me. E con lui devo venire lì e farlo sul posto, perché quel microfono non c'aveva niente, era a posto, solo che è un MC85 quello, capito? Quello è un MC85, c'ha l'equalizzatore parametrico, c'ha tutto, evidentemente tu hai toccato qualcosa e quindi esce male. E oggi cosa stavi dicendo? Che Giuseppe diceva la moto, la cosa hai detto? E Giuseppe ne prende quasi un segnale a te, anzi uno te ne prende più pure, e almeno arriva più forte di... Arriva quanto è Sandro? È 9.10 lui, 9.5 con picchia 9.10. Tu sei 8.5 con picchi a 9. Ma se andasse bene te l'avrei anche dato, non me ne frega niente, lo sai che no, non ci sono problemi con te. Ma non va bene, non vanno bene questi microfoni con i baracchini, capito? Avevamo fatto un esperimento con Sandro, avevamo messo al presidente Lincoln, lì andava bene, con l'adattatore era stato fatto un bel lavoro, ma non l'avevo fatto io, l'avevo fatto sempre Massimiliano. Capito? Non Massimiliano Borgatti, Massimiliano Archimede, che se l'ascolto saluto. E andava molto bene, molto bene. Però bisogna provarlo lì, bisogna provarlo con l'adattatore e fare la prova. Beh, una prova si può provare. E questi sono microfoni che spingono parecchio, non è che sono microfoni professionali per HF, costano una barca di soldi. Costa più di un baracchino il suo microfono, io ce l'ho sempre avuti perché sono di linea, capito? Quindi va bene, va bene. E beh, Antonio, trovate lei questa batteria. Ma sono rientrato, mi sono avuto una lattina, altre batteria. Lugariello, da quant'è questa batteria, Antonio? Non l'ho guardato, che stavo parlando con Marino, che stavo dicendo qualcosa di quell'apparecchio suo, dice che ha sistemato un marchizio che perché c'era la capo della batteria, era oscillato, ecco perché non riusciva a levare. Adesso guardo, cerco nelle mani delle istruzioni, dovrebbe essere unità di display, no? Dove c'è il display dovrebbe essere la batteria. Unità di memoria dovrebbe essere. ormai sono entrato in memoria nel coso, come si chiama, nel grafico che ti dà lì, dove ci sono tutti la piazza Portadio, di tutta quella roba lì. Sono guardo, ciao Luca, ben sentito a te, adesso la vai tu. Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao a tutti. Ciao anche a Eugenio, Alghero, buonasera, avanti. Ciao Galia, buonasera. Ehi, Alghero non c'è, Valerio che si è allontanato, c'è Giuseppe, ma evidentemente non ti sente. C'è QRM, a Usantrida? Ciao Valerio, mi ascolti? Luca, la Sassari. Ma ti ascolto bene qua, eh. Io QRM, non so cosa sia. Il QRM mi sale solo in propagazione, non so cos'è il QRM. Ma questo sta parlando Valerio. No. Aspetta, Lucarie, dimmi sa. Ok. Ciao Luca. Allora, mi sono documentato sul computer, la funzione, diciamo, della batteria consiste in questo. Innanzitutto la memorizzazione dei canali, diciamo, a tua preferenza, quali canali tu vuoi memorizzarti, è lei che ti tiene, diciamo, memorizzati i canali. Poi, riguardo, diciamo, il display, dalla frequenza del display dove tu rimani, spegni, accendi e così tu te lo ritrovi. In questo caso io mi ritrovo senza batteria con le stesse funzioni. Senza batteria con le stesse funzioni. Quello è normale. Perché il 440 c'ha il... la batteria agisce su WFO memorie, infatti se tu leggi, cioè WFOM, ok? Quindi quello lì, quando tu vai nelle WFO, se vai nel WFO normale, le memorie spariscono e te le deve tenere in memoria la batteria al litio quando tu passi nell'altro WFO, capito? Quindi ti ripeto, io non ho molta esperienza su quella radio perché non ho mai agito niente, non ho mai fatto nessun lavoro, mai, capito? Mai. E quindi non so esattamente, però la funzione è quella perché sono tutte uguali, perché voi li ha fatti tutti così, sia su 140, sia 80, 430 e 440. Il 430 però che è più meccanico, c'è solo 8 memorie, non ha quella funzione lì, mentre il 440 agisce sul WFO memorie, la batteria al litio. Allora, guarda, ho cambiato, mentre che tu stavi parlando ho cambiato. Attualmente io sto modulando, sto trasmettendo nel WFO memoria, dove ho memorizzato la frequenza. Ok, perché praticamente cosa è successo? La batteria gli ha dato la memoria al WFO memoria e lei se l'ha presa in memoria, ok? Quando però tu la spegni, siccome non c'è la batteria, la memoria decade sicuramente, sa, se tu domani mattina la accendi, la prova la devi fare a radio fredda, ok? Quando praticamente si scarica tutto, quando la radio è spenta si scarica tutto, condensatori e tutto. Il WFO memoria sicuramente adesso ce l'ha in memoria e te la sta mantenendo fino a quando la radio è accesa. Quando poi tu la spegni e la ricevi domani mattina, sono sicuro che non te la dà più la memoria. Sì, ma ragiona un attimino Claudio, la batteria a me mi serve per tenermi la frequenza che io memorizzo. Se tolgo la batteria, la frequenza memorizzata non dovrebbe più farmela vedere, in teoria. In teoria potrebbe essere così, ma in pratica forse no, perché il WFO memoria magari ce l'ha memorizzata, è tipo una scheda di memoria, è come il computer, ce l'ha memorizzata e te la sta mantenendo. Nel momento in cui tu la spegni stasera e la riaccendi domani mattina, sono sicuro che la memoria non te la dà più. Va bene, adesso vediamo un po' domani mattina, probabile pure che adesso a caldo, diciamo, se la stia tenendo. Va bene, dai. Mandiamo a monte questo discorso qua. Chi c'era? Luca di Luca. Da 3 volse comunque quella batteria, Da 3 volse, quella con la lente c'hai Giuseppe. Sì, prenditi la lente Sandro, che c'è positivo o negativo. In C. preciso, si vede, prenditi la lente e guardatelo. È da tre voci comunque, sa. Sì, sì, l'ho guardata meglio, claro. L'ho guardata meglio e il positivo è verso il basso, il negativo è verso l'alto. Sì, sì, l'ho già guardata meglio, c'era un po' di sporco, l'ho pulita bene con l'alcol e il positivo è verso il basso e il negativo è verso l'alto. Vabbè, comunque adesso vediamo un po' se ce la puzzava oppure il Tonino gliela prendo già con le due. Adesso va bene. Eia, positivo, va bene. Comunque tu la prova la devi fare domani mattina, perché c'è la scheda memoria. Vuoi fare la scheda memoria, ti ha memorizzato il canale, rimane la radio accesa. Quando tu la spegni domani mattina, sono sicuro che non c'è più, capito? Adesso vediamo. Va bene, dai signori, vi devo lasciare. Salutoni a tutti, buon proseguo, alle prossimine. Ciao Sandri, alle prossime, ci sentiamo. Avanti a chi tocca, io intanto mi preparo che devo portare il cane. Va bene. Antonio, abbigesi. Sì, Antonio, la borsa! Beh, qua povere, eh? Ma di che non ti riconosciuto, eh? Ma ti voglio parlare con uno. Ma te l'hai piantato, Natali? Robe più 25 sei qua. Magari più bene, vabbè, se vi siamo vicini. Va bene. No, volevo chiedere a Valerio che se non mi ascolta passo, perché io lo ascolto bene. Avanti Valerio. Negativo, io questo macchino non le prende QRM. Se attacco tipo un 48, uno di quei macchini così, allora sì, un po' sale. Però con questo QRM, guarda, mi sale solo in propagazione e basta. E vabbè, dai. C'era Marco, avanti. Ah, prima forse mi ascolta Giuseppe. Giuseppe, mi ascolti? Oggi mi ascolti bene perché l'altro giorno non mi sentivi bene. Sì, ti ascolto un po' impattato in modulazione. Non so se dipende da me. Boh, avanti, claro, prova tu. No, dipende da lui che sta usando il tappa con il microfono normale. Ah, ok, dai. Va bene, avanti, buon buco. Ora è la piena, ti fanno male, buon buco. Dimmi Giuseppe, sì, già lo sa Sandro, il negativo è la scritta R, va bene, sì, positivo è quello con la crocetta, negativo R, va bene, ok, dai fatemi preparare che devo portare il cane che è già pronto, ci sentiamo dopo se ci siete. Sì, ho capito Giuseppe, ho capito, ok, dai mi preparo, devo portare il cane, già arrivo subito. Ti attorno subito Natalità che vado a portare il cane. Cosa vale? Cosa può essere? Sembrava che ci fosse lo scorcio, se tipo le prestazioni alte, con le basse no. Già, ci sentiamo dopo, stiamo a portare il cane. Sì, ma non è al doppio modulatore il tuo, gambi... sinistra. È fuori in macchina, ragazzi. Ma lo sai che c'è adesso l'antenna che non anche qui di bassi. Non lo so se anche la mia così sente, se l'apparato, se l'antenna, ma l'apparato sente tutti bene, invece con quel col galassi no. Sento bassi, le stazioni basse, si vede il segnale, ma non si sente niente. Bravo, bravo. Quello qua sta funzionando bene, quello che si sta funzionando bene. No. Attenzione, Natalino, si ascolti il doppio rucco e ti ama, cambi gara gara, la presa in questa regolazione, gara gara, gara gara. Sì, Natalino, la sento, dai, anche perché sono in Viale San Francesco, sono vicino a Tie. Sì, va bene. Sì, aspetta, voglio vedere. Ascoltami, come sto uscendo. Allora, adesso ripete tutta la parola. Sempre il balbuziente. Guarda, così bene dall'esco. Si scala, Natale, leggermente. Basta parlascolta, così va bene, però devi abbassare un po' il parlascolta, in modo che non inneschi, mettila al punto dove non innesca, no? Vanti, Ratapignana, dove sei? In che via? Alla via Oriana, un po' bacino di radio, ti senti, io sono in via Pascoli. Ti sento un po' bacino di radio, tu come mi ascolta già? Ma il galassi di nuovo a portare, le stazioni basse non si ascoltano più. Oh, scusate un attimo, ciao Gianni, vediamo un po', Fortunato vai e prova, state un attimo in stand by, prova Fortunato mi ascolti? Sì, arriva la portante, un po' basso ma arriva, solidale non esci, capito? Prendi Natalino, ho capito questa confusione c'è stata, avanti. Luca che stava parlando con uno, l'ha visto? Non lo sentivo io, boh. Ma qui io lo sentivo l'altro, ma c'era Luca che stava chiamando a uno, ma adesso il terzo andai, ma per quello che mi sono fatto visto. Marco, mi ascolti, andava? Sì, Marco, ti ascolto bene. Va bene, provata! Gatto! Noia! Se il portone è aperto, magari se ritorna entra nel portone, capito? Magari anche il calore, per quello che si fa, Ciuccheciu, dimmi! Ah! Ecco! Adesso faccio con lei con la pernacchia, brutto marrone. Claudio, allora, non ne parla di voltaggio qua, parla solamente di batteria al litio, non parla altro, che è attaccata al microprocessore, però non ho vestito nulla, neanche nel circuito San Fatto, tanto meno nel service, cioè il manuale del casino, bisogna, a meno che non c'è una sigla in quella batteria, e l'unico modo è quello. Io ho aspetto il coso per cercare questa semalora stazione di 140. Va bene, glielo dico dopo. Avanti, brutto buco di Marco. Sì. È sicuro. Sicuro di Ginkuru. Sì, domani. L'unico che faceva le rime era cosa di capo. Riccardo Pinna, che era una cosa allucinante, era molto piccola e era adesso le rime. Oi oi. Chi io? No. Avanti Gianni. Sto chiudendo, vi sto salutando. Ci sentiamo a domani. Ciao! Ciao, ciao! Ciao Gianni, ci sentiamo. Marco, ti sento in mezzo alla cosa. C'era anche il dio che sta parlando per questo canale. La batteria delle memorie. No, è la batteria al dito di un microprocessore in pratica, capito? È lasciato un microprocessore e questo microprocessore fa tutto. Quindi sto uscendo bene col 2009, che era un giorno che non lo usavo. Marco. D'accordo, va bene. Ho intanto fischi natali però. Ma l'eco già esce bene, esce come il mio, come le cenofre. Non è questione di che ci confisco, esce anche normale confisco, non è che per forza l'eco verrà problemi. Ah, Top Gun moduletto, come ce l'ho io. No, io lo metto off. Se no amplifica troppo adesso. Devo cambiare quella capsula, la MV4, le metto quella della verde e un treno, eh. Lo so, lei ci ha avuto un bel tubo con una L ed avete sistemato una milligram premia al limite, vabbè è stato provvisoria, poi l'avete messa al limite sopra il tubo, che allora va bene la milligram premia. So, lei c'ha quei radiali che erano problemi, il discorso è quello. Lì allora va bene, mi ho una Ringo, che è leggera, o la BMC, oppure la Mercury. Che pesa neanche 50 grammi, anche perché tu c'hai quel palo lungo, che è un casino, mi dà la finestra per lentire, una volta che ci metti la Mercury, bisogna essere almeno in trelli, a tre del palo, sono di Vala, io sono di Vala. Già lo so, ma siccome, cioè... Quando il palo è lungo 8 metri, poi ci mette una cosa, una bella di 7 pelle e comincia a pesare. Io quando mi stavo desandolato con un coso, con Giulio, padre Pio, quando ho sollevato la mantova col palo telescopico, se la pigendi il tutto, se la pigendi. Non riuscivamo a sollevarlo, allora ho dovuto mettermi al centro della via, sollevare e agganciare il palo alla staffa. Basso, così, una volta che lì poi abbiamo sollevato con una scaletta e siamo riusciti a sollevarlo di 2-3 metri e ci va benissimo. Oh, vi saluta Fortunato Acchi, che mi ha chiesto se volevo la portante, che la portava trovando. Vi saluto a tutti, dai. Se c'è Claudio, tutti. E gli saluti ricambiati. Saluti ricambiati comunque Luca, da parte mia del Vindaghi. Ma penso che vi ascolta comunque. Sì, a me non lo so perché c'è l'antenna della macchina. Ma pure vado a mangiare, dai. Alla prossima, ciao a tutti. E buona cena, non ho fatte. Ciao! Ciao ragazzi, dai. Ciao Luca, ci sentiamo, stai bene. Buon venerdì, buon tutto, alle prossime. Comunque Antonio, quel monaco che ti devo portare, l'ho fatto vedere a un amico e mi ha detto non si può acquistare. Come mai? Tutto incasinato, eh? Hanno trasmesso con le stazionarie, accende ma non trasmette e non riceve. Ho capito. Ma lì non si accende manco di screno. Sì, accende il display, accende. Non trasmette, non riceve. Se non trasmette, non riceve, c'è le... Allora partite PLL, senz'altro. A seconda di cui c'è anche un capo con il microprocessore, intanto. Cosa rita, eh? È partito il microprocessore, bravo, mi veniva il nome. Poi l'A48 Plus. Plus, quello digitale. Diciamo che è un apparecchio che fa un po' desiderare. Sì, gli ho capito. Io ho un barattino qua, c'è il... L'unica cosa che c'avevo è che non so se c'è, non riceveva per niente, i discri non si accendeva. E c'è un amico processore quadrato, cioè, di quelli piccolini. Sono capitato a casa. Figurati, l'uso per pezzi. Quando è così il microprocessore, ne avevo uno di quei baracchini o così, un Midland anzi, addirittura. Quando parte il microprocessore è un casino, no? Non vedo da lì va. In pratica viene comandato da un transistor che ce l'ha attaccato allo chassis. Se parte quello non gli dà la tensione, mi sembra che sono molto grosso, se non mi ricordo male. Non funziona. Comunque controllo quel transistor a vedere che è attaccato allo chassis. Dovrebbe essere uno stabilizzatore di tensione. Rimane vicino al display. Sì, io non voglio controllare nulla, io l'ho aperto, magari pensavo di trovare il danno. Sai com'è? Ma niente. No, vabbè, io lo torno, buonanotte, non studio a perdere tempo e spostarmi a destra e a manca. Vabbè, io chiudo, ciao. Ehi, d'accordo, ciao, ci sentiamo. Sì, la potenza di che compra 50-60 euro un bel baracchino, ce ne sono tanti in giro, ce ne sono anche modello vecchio, tipo 504-6X se lo vuoi, Integra 34 canali, o se vuoi spendere di più ce n'è anche a 100 euro, quindi tipo 2009, 2006. Ehi, sono quello a lui, ciao Natale, ciao Claudio, ciao a tutti, ciao Marco, ciao alla prossima, ciao. Ciao Luca, ci sentiamo. Dimmi Marco. Ehi, 546, dove quanti ne vuoi in giro? A parte che pigliano un sacco di strade, però costano la pesteria anche 40 euro, trovi 30 euro, come gli Intec 340 per dire. Si trovano ancora in giro come baracchini. Beh, costa un bel su quel periodo lì, con quella, che ho già capito già qual è quella parecchia. Proprio nella carrozzeria di sopra c'è il pulsante e l'hanno cassata a installarlo quella scheda lì, la fesseria. Era come, si poteva trovare addirittura anche nelle FM500S, perché andava bene lo stesso. Solo che girava 34, bisognava cambiare il capito computatore di canali, e quello era un casino di in pratica seguire delle cose strane, di cui non conveniva. Comunque già sono apparecchi che funzionano bene, sono belli per la macchina. Guarda, il 540 tutto vi promette, è l'Emetro 100 che c'è forte, esce molto forte, o l'Emetro 100 oppure il DM1000, sono i 12 microfoni che vanno bene nel 548 6, sono una bomba, sono. Poi li puoi anche modificare il watt, basta che gli stacchi quella parte metallica che c'è agganciata all'ingresso dell'antenna, in pratica serve il filtro di modulazione e ti dà 15-16 watt d'uscita con l'apparecchio. Oh, io li ho tutti modificati così, quelle le FM, cose 548 6, te lo ricordi quello di andava al Cuvio, che usciva una bomba attaccata col 550 modificato, era come apparecchio di ricezione era un cesso, però in trasmissione era una cosa allucinante con l'Emetro 100, ce l'ha ancora amici, c'è anche un 2009, c'è originale che... Gli era sceso un fulmine lì vicino a casa sua, gli c'erano crepati i PLL. Capito? C'era ancora cosa un fatto. Solo se non vedo, non lo vedo ad Andrea, a Ricuvio. Li buttate a casa sua gli apparecchi, fermi da meno, sarà una decina d'anni più o meno. È piccola, è 65, però ti sento. Beh, è incredibile, sì. sono antenne, quelle piccoline che non rendono quasi niente, capito? Ma l'antenna più lunga, cioè le 5 ottavi, quelle con lo filo d'acciaio, quelle sono i migliori che ci sono in commercio. La Detroit pare si chiama quella che c'è tu bella là. Quella serie lì c'aveva Tonino, con l'attacca a pelle. Non ho capito, sai quella che funziona bene, che tu ce l'hai di antenna corta? Quella del kit dell'agenzia del di quell'apparecchio pesce, con la portante rossa, te la ricordi? Il kit lì che c'è la magnetica con portatile, quella sì che è bella quella magnetica, quella pompami. Come con l'antenna in gomma in pratica. Ah, adesso ho capito. Già ho capito quale parte magnetica è con l'antenna in gomma. Quella la compravo nei carabinieri tanti anni fa, per metterla dietro all'appeggiante. Capito, non svenivi nulla. Si pigliavano le portate e si mettevano nel fianchetto dove sono le marce. Hai capito? E l'antenna magnetica dietro all'appeggiante, non vedevi nulla tu. Le conosco, non è che ci hanno guadagno, glielo so io, capito? Però lavoro bene, ti piatto per quando sei qua vicino. Solo per mettere in macchina, era meglio un'antenna normale. Anche di quelle caricate, quelle del vecchio, per vivermi, che si vendevano una volta lungo un metro e qualche cosa. Poi sono anche quelle così in acciaio, eccetera, eccetera. Lei ci conferma, è ben normale, più ti allontani. E così in città infatti fanno bene anche quelle cose. Ma quello c'è il vero. Già ne ho avuto tipo di antenne, sai l'unica cosa che andava bene, quelle antenne che si usavano in quel portatile di una volta, le lunghe, un metro o qualche cosa, te le scopri che era. Quella già pompava, l'ho messo in una magnetica, quella era stata un bijou, era stata, perché io mi ricordo che la campagna parlavo tranquillamente con, come si chiama, quella ragazza che parlava da magistero, tu figurati, dai vere produttore, con portatile, con toccare sui canali, e lei mi sentiva benissimo, segnale 9. E ci conferma, ma è così, dai, già, abbiamo già fatto le prove, le cose, è normale. Come c'è Marco? Ciao, agaffa! D'accordo, stai a casa così ti sentiamo. Tu sei andati via? Sì, siamo andati noi due, perlomeno. Vabbè, sono andati un quarto, quindi tutti accennare. C'è, accennare. Oh, yeah. Ma mi ha fatto quel conno 4.000, non ho capito cosa gli aveva preso. C'è tanto così mi ha fatto saltare ieri. Yeah. Controllo c'è qualche falso contratto. Ho falso contratto che c'è qualche condensato che è andato in corto. All'uscita del PL. Perché se io tolgo la massa, la rossale del rospetto, se invece mi metto la massa, scende. Ma vado male contro il leccio, vedi, con calma. Così me lo metto, lo sistema, lo lascio la faccia. No, ma è fatto, cioè, mi ha fatto una volta, ma per due minuti, poi ci arriva e ce l'ho composto da solo. Questa volta invece la prendo, domani lo controllo col test. Vediamo che me la sorte c'è. Ma quello che dove metto a posto non è ancora messo a posto, perché è sempre il battigio. No, con il battigio gli ho staccato un piedino che è collegato alla massa del coso e il corto non c'è più. Se lo ricollego va nuovo in corto. E in quel piedino lì c'è in pratica l'ho stampato ma il condensatore gli ho cambiato ed è nuovo ed è collegato giusto, quindi il corto lì non ce l'è, poi c'è un filo che parte da lì e va a vedere. Adesso devo vedere anche che magari sia il re che da cambiare, magari, che rimane citato e quindi non mi dà la ricezione, non mi dà l'audio. Adesso vediamo un po', ma ormai c'è un apparecchio quasi uguale a quello, quindi prima controllo l'integrato audio, glielo cambio di nuovo e vediamo se il problema, perché a volte capita che ci sono i componenti che sono fossi male, mi sta fusato. Figurati, una volta sono uscito fuori di testa con col 1979 del 66 ho cambiato due volte, cos'era? Così ti assisto che non seguo la nuova cinese. Non lo giaccio. Quel casino, non vorrei, cos'è sempre? Minchia, lo so. Adesso la settimana prossima. È bello andare per la macchina. Così quando scendo a Chiesi, voglio vedere fino che arrivo. In macchina, la metto nella 5, nella cosa, nell'appunto di Giovanna. E più la concessione a prezzo. E da quel 2009. Quindi vediamo fino a riuscire a sentirmi. E con quale baracchino? Con questo. Questo qua mi mette in macchina. Allora già ti sento sicuramente. E mica il porto del 69, no? Sì. C'è un'omologazione dietro questo baracchino qua anche davanti, quindi sono più tranquillo nel caso dovessero fermarmi. Perché c'è un periodo che fanno fusti di blocco lì nella salettina dopo la cementeria. Addirittura? Sì, l'altra volta ero con l'altro veloce, dalla parte opposta, figurati. Quindi per venire meglio di curare, nel caso mi fermano, te, questa è la parecchia omologata, questa è la concessione, così se lo leggo, perché c'è scritto questa marca qua. C'è scritto Tornado, anche se c'è 260 canali, già va bene lo stesso. E la mascherina, te la ricordi, le dava Giorgio Grassi, le mascherine, con la bracchettina, chiamiamola, pezzo di foglio di carta era messo dietro, dove, adesivo, e c'era scritto omologato, PTT, eccetera, eccetera. Quindi c'era lì, ti vi raggiungo, c'era addirittura la mascherina del suo originale, che l'ho conservata, del 2009. Cosa fai? Nulla. Questo baracchino qua, siccome c'è la mascherina del 34 canale messa davanti, perché se tu sai che la mascherina che l'ho messo sopra, quella di sotto è del 4005, perché è nera. L'hai modificato quindi? Io ho modificato il frontalino, tolto il frontalino, l'ho messo, nuovo, del 4005, sotto quello sopra la mascherina del 4005 ci ho messo la placchetta del 34S, ed è perfetto. Non fa nessun difetto. Non fa nessuna piega. Quando mi fermano, quanti è tra via? Omologato, 34, glielo faccio vedere. A posto. Adesso, prima usavano quello da lanciare dietro, la placchetta, adesso non esiste più, adesso c'è, basta, il marchio c'è e l'è omologato. Poi già lo sai, modifica, basta fargli una saldatura piccolina, e anzi neanche la saldatura adesso, gli fa la programmazione della tastiera e va dove vuole. Ma sono uguale perché? Io sto parlando di altri apparecchi che sono usciti, che in pratica c'è la tastiera, prendendo due pulsanti e cambi, per dire, da Italia vai in Russia e c'hai lui, non c'è stato un canale a fuscia ne hai, con quegli emolenti che sono usciti adesso, gli apparecchi. Perché una volta che per fare di 200 canali ci vuoi mettere i pulsanti, roba del genere, tastiere varie, questa manovale già è uguale a 34 canali, quindi già è tranquillo. Sì, ma dico, dentro non l'hai modificato? No, dentro è normale, c'è 15 watt d'uscita e basta, normale, non ho mai toccato dentro. Ci ho messo il bip, già lo sai, l'unica cosa è che ho aumentato l'LC e la potenza. Boh, adesso non ho toccato niente nel 2009, grazie a Dio, chiaramente che sta funzionando. Ah, Lucia, e allora, già andava. Okay. Scusate, ero un garizzetto quando usavo il 2009. Tutto va, sta funzionando. E tu Giovanni, te l'ho io che... tu mi ha detto, in casa non ne voglio, sono Giancarlo, dice, sarà sempre attaccato a Bacchi. Se le piace modulare? Giancarlo sì, gli piace modulare, se avesse avuto un'altra casa, per dire una villetta, sarebbe subito installato il baracchino, sarebbe stato un tizio attaccato. anche appassionato di queste cose. Quando il bandarazzo c'ha due apparecchi VHF e si aveva comprato, e domani esatto li ami, belli, lui dato lo accende, fa le prove, eccetera, eccetera. C'ha anche il buon Feng, c'ha. E si mette a fare l'ascoltone. E intanto il cappellaccio. Mi hai detto nel pensiero. Buonasera a tutti. Uia. Sulla Lanci mi sto ansimando. Mezz'ora le pare tutta la roba dalla macchina. Allucinante. Come mezz'ora? Quanta roba c'è? No, mezz'ora per modo di dire. Togliere l'antenna. Metterla dietro, coprire il baracchino. Poi mi si è dimenticato di mettere il gancio alla macchina, allora ho dovuto mettere il gancio alla macchina, pigliare il pacco della roba che l'è presa, mettermi la giacca, chiudere i specchietti, ogni volta è una cerimonia, troppo segmentato in faccia mio. E poi c'è anche la palla delle scale, che se bello è quello, con la busta qua da sopra, l'ansia ti viene. Sto scherzando? Sono appena rialzato, sono 9 scalini sono. Quale scale? Ok, vabbè. Mirko, se avessi conosciuto ovvero io il desagolato qua da sopra, intanto con la cosa, con il fiatone, perché le scale erano leggermente alte, non quelle tipo di scale basse, ma quelle alte, il vecchio una volta, qua da sopra, sai, facevo la spesa dello spi, due buste io, due buste Simona, qua da sopra, Murcio e Ove. Tipo le scale di Natalino? Tipo le scale di Natalino, quando sopra sei morto. Anche se lui per dire è solo un piano, là. Però sono alte, bien male, a portare sulle buste viene, un bel male. Se ti crepano quel tipo di scale, se non sei abituato, io le facevo tutti i giorni e era un casino, vabbè, poi c'era quello che le faceva quando venivano, che erano occulti, le facevo tutte un'ora, e poi li trovavo attaccati al muro. Eia, ascolta, avete scoperto che batteria monta per le memorie 140? Non c'è scritto, ho guardato il coso, ma non c'è scritto, ma c'è scritto batteria al litio, attaccata a un microprocessore, però non c'è scritto il tipo di batteria, nulla. Ho trovato anche addirittura nello schema elettrico, niente da fare. È lanciato un microprocessore, però non c'è scritto nessun tipo di... neanche la sigla c'è scritta, quindi bisognerebbe andare con la patina vecchia a farla vedere a... o Antonello, quello che c'è da Fusaro, che ne capisce con me, oppure da Tomino, due sono le cose. Altre voce. No, a parte quello, il modello non c'è scritto da nessuna parte, no? Perché avrò un modello sta batteria. No, sono modelli che però non c'è scritto niente. C'è la polarità R negativo e poi c'è il più. Oh, sento il segnale, fammelo vedere. No, non noto niente, qual è il problema? Che praticamente non faceva questo circuito la stessa, la gara che faceva, e adesso praticamente si faceva. Seia, vabbè, ci sono anche antenne che funzionano senza circuito, senza corto circuito, e funzionano lo stesso. Diciamo, è meglio che ce l'abbia. Come gli hai messo la ghiera dentro, cioè? Capito. Aspetta che sta contando i soldi. E quando uno rientra a fare la spesa si mette a contare i soldi, capito? Se io mi giro di male non riesco a registrare i piedi di questa radio. Aspetta che rientro subito, la devo strozzare col cane. No, una cosa allucinante. Ma le bombe così complicate, c'è la regolazione da sotto, la nuova, più alta, più bassa, eppure non è fare due, ce lo abbiamo. Ma vabbè, adesso lascio stare così. No, prima c'è la linea dell'altra, no? Abbiamo messo la regolazione sua più due filtrini, però mi risulta sempre leggermente più bassa, io dico come rado. Alla sera di livello c'è la luce. Yeah.

lo so. No, questo ho pagato 200 euro al radio e ne ho spesato 250 per metterlo a posto. Tutta completamente revisionata, dalla alla Z. Da Vodale, come si chiama? Bianconi. E io, meglio adesso tocca al 4.30. Mi sono rotto le scatole, glielo mando, me lo faccio tutto revisionare, da là alla Z, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, non me lo tengo di scorta, ogni tanto lo accendo, però c'è la lampadina fulminata, ci sono un sacco di cosette da fare, capito? E quindi adesso glielo mando, me lo faccio fare anche quella, qui sono tutte e due nuove, no, questa è anche senticamente, anche 430 nuovo nuovo, però è vecchiotto, vecchiotto, ogni tanto da segni di vecchiaia, capito? Un'altra volta l'ho acceso, stavo parlando, mi si è spento, mi ha dato un colpo, si è riacceso, capito? Quindi vuole mandato, è revisionato tutto, ma sono saldature fredde, componenti da sostituire, facciamo fare. È l'unica cosa che è nuova è la parte di display di Avanza Fabrizio, quella è tutta nuova, nuova nuova quella parte lì, però tutta l'altra parte mi aveva già detto che prima o poi mi lasciava a piedi, ma non perché, perché è proprio segni di vecchiaia, capito? L'ho mandata con calma e messa tutta in, in sesto bene, però funziona, la tengo di scorta. Eia, cosa c'è lo smitter spento, hai detto, la lampadina fulminata, ti dà la pompogna e ti mette il led blu. E questo altro non riesco a cambiare la lampadina, c'è la, la cambio la lampadina, l'ho già cambiata, solo che la fulmina, quindi ci deve essere ciò che faccio contatto. Mi sono arrivati 8 messaggi, io sei, anzi. Ma WhatsApp o posta elettronica? Ah, cosa vuol dire tu? Per Rosy è quella del quadrato, è sempre manda di voto porno. Rosy, cosa vuol dire che ti ama? Ti sta tentando, mi che ti mette sotto, mi ti schiaccia. Sei allucinante, mi ha mandato poco di mondetta. Mamma mia, già il pensiero di chi le manda. Per carità. Cosa vuoi che ti dica? No, c'è un più. Tutti i video, io tengo tutti i video di Gagliata, poi da Ghiccia, ti vola, passa sul pene, boh, avanti, mi do, passa sul pene, boh, tutto il penometro mi ha mandato, passa sul pene, ma no, porcona mia, una cosa allucinante, ma se non te me ne manda, si sciuga. Guarda, se si paga a centimetri io pago poco. Io non lo so, non l'ho mai misurata. E ci iniziamo a cancellare, va. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, via vai, che quante barriere diventiamo questa cosa. Mi manda, me la mandate. Perché? Tu manda, io le mineggio. No, Rocco Siffredi è rovinato se si paga centimetri. E come dire che tu sei anche chi è grande, così è. Ah, non lo so, io non l'ho mai vista. Non ne guardo io che chiede maschi. Ah, così è, mi paghi in natura. Oi, oi, è troppo pornografici siamo mi, su questo canale, anche l'altra volta stavamo parlando di cose scabrose, poi scandalizza chi ha l'ascolto mi. Sei sempre tu Marco, boh, io ti ho detto una cosa, ho parlato pulito, non è che mi ha mandato una cosa, non aprire te. Vabbè, vabbè. Come mai non le manda al marito le cose porno? A Rosy? Ah. E le manda a te, l'essere che si è innamorata a me. Dio ce ne scampi e liberi. Claudio, descrivili come Rosy. Una ratta pignara donna. un pachiderma, diciamo, dai. Ma almeno lo sai cos'è il pachiderma? Dimmi cos'è il pachiderma. Ah, già lo sai, sì. Eh beh, buono, dai. No, perché se qualcuno gli dici pachiderma, dice cos'è il pachiderma? Non lo sanno, molti non lo sanno. Se non dici elefante, non lo sanno. E buono, Natalino è acculturato almeno, vedi? E cosa pensi? Cioè, se poi ci vedi. Guarda, io non riesco a mandare, vabbè. Per quello io già vado al bar dalla parte opposta, mi. Dove c'è quella signorina bionda alla cassa, quando c'è, quando non c'è il ragazzo, il marito. Insomma, a Piazza dei Segni ci sono due bar, uno verso su, verso, come dirlo, a fianco al Capitano Uncino, no? Io sono dalla parte opposta, a fianco dove c'è MD, il multimarket lì, MD o come si chiama. Una volta andavo lì, ma non mi piace, un ambiente strano c'è, cioè, poi mi ricorda qualcuno, Claudio, che gioca alle macchinette, quindi non ci vado anche per quello. Sì, l'altro giorno 2 ore c'era. Sì, quello è il suo passatempo principale, non è un passatempo, cioè, vabbè, la pesca, c'ha, ma lui quando esce la macchinetta si attacca, quello è, tutto quello che gli interessa è quello. Vabbè, più le donne, c'ha ragione per quello, le donne sì. Speriamo che non gli venga il demone del gioco, cioè si inizia così, poi si aumenta, si gioca sempre di più, sempre di più, sempre di più, e poi ci si rovina. No, non lo sai, funziona così. Che poi lui può andare sia alla macchinetta del bar e sia alla macchinetta di quella, proprio alla sala giochi che c'è a fianco, no? A fianco al bar, davanti al bar, diciamo, no? Io sto sempre aspettando il pacco da parte sua, eh? No, te l'ha mandato ancora. E mai lo manderà, lui non ce l'ha il tablet, il Pegasus pacco, non ce l'ha, se l'ha fatto i soldi. Dici? Non è possibile credere alla versione del pacco che l'ha mandato in riparazione, dai, siamo seri. Ma non lo so. Vabbè, dai, i soldi vanno e vengono. Ma Pomponio c'è ancora o ha chiuso? Non lo so, io poco fa l'ho sentito, ma sono, non lo saggio. Eia, vabbè, dai, adesso, vabbè, oggi ho fatto la saldatura al PL, l'ho allungato, non in larghezza, l'ho un po' allungato, vediamo se quel baracchino omologato della macchina lo digerisce, se no si lo lampo mio questo baracchino. Poi, insomma, c'è l'altoparlante frontale, ma l'altoparlante è talmente piccolo, no? Pare sia di 3 cm, è ridicolo l'altoparlante, no? Che audio puoi sentire da un altoparlante, anche se frontale, un altoparlante così piccolo, sì, capito l'audio? Mentre nel 3009 c'è un bel altoparlante che sono quasi 10 cm di diametro, vabbè, se non è 10 è 8, ma è tutta un'altra, come dice Claudio, una salgupa come ricezione, come timbrica proprio di ricezione. Vabbè, però cazzo, se la, scusate il termine, mi esce così, Gianfranco già mi perdonerà, che già mi ha detto roba l'altro giorno, che parlo male. Cioè, se lascio il superstar in macchina, se me lo rubano, è già un casino, mentre se mi rubano quello omologato, chi se ne frega, capito? Devo accettare quella cosa lì. Il furto del 3009 è un peccato, o del Jobis lì, quello frequenzimetro, perciò lascio l'omologato, quello vale poco e niente, se me lo rubano pazienza. Beh, io vi saluto con la cena del Solanotte. A domani, signori, statevi bene. Ciao Natalini, ciao Marco e chiunque fosse in ascolto. Basta che non siano... già mi hai capito, non lo voglio dire stasera. Miserabile, non sia. Ciao, buonanotte a te. Ehi, ciao Claudio, dai, sentiamo. Tanto adesso vai a mangiare. Pensa che io sono ancora a digiuno. Devo pranzare e sono le... Esce a ridere. Esce le 9 meno 3 minuti e io ancora a mangiare. Vabbè, farò piatto unico, pranzo e cena a piatto unico, dai. Stomaco che chiama. Poi cos'altro vi volevo dire? Boh. Niente, dai, adesso chiudo e mi scaldo la pappatoia, dai. Sentiamo domani, adesso è tardi. Poi vediamo se c'è qualche film bello, boh. Qualcosa in TV, dai. Ciao Natali, buon tutto, ciao Claudio. E ciao chi ascolta. Ciao a tutti, dai. Ciao, ciao a tutti, ciao anche a Elio. Ciao, ciao. Ehi, ciao Elio, sei all'ascolto, ciao anche a te, dai. E beh, sai cos'è? Natalì, per finire, certi ti dicono, speriamo con DHL, uno pensa, allora arriva subito. Due giorni dopo, sì, magari mandano un DHL, però spediscono magari il giorno dopo, due giorni dopo, anche tre giorni dopo, capito? Quindi, vabbè, fregatene Natali, l'importante è che arrivi l'alimentatore, poi, a fottidini, l'importante è che arrivi e che funzioni bene. Tocchiamo ferro, mi, ormai ho parlato, sicuramente ti arriva rotto. No, dai, già arriva buono, dai, il mio è arrivato buono. È che dopo un po' di tempo ogni tanto la ventola fa rumore, quando la accendo fa mina, aspettate, te lo accendo, vediamo se lo fa. Meglio, lo senti? No, adesso ha smesso, sta la ventola, si è rotta e parte proprio, sembra una specie di cosa, di raffica. No, più che altro va pulita, perché si forma tutta quella polverina nera, no? Credo sia fatta dai carboncini della ventola o giù di lì, insomma. Poi polvere, cioè, bisogna smontarlo e pulirlo tutto, pulirlo bene, sia dentro che la ventola, facendo anche scaricare i condensatori dentro, se no ti pigli anche la scossa. Adesso ci butti tutto la pietra, fai prima. Oh, Antonè, quando passerò da te sarà troppo tardi, mamma mia. Ci abbiamo avuto pure questa preoccupazione della gatta che è sparita, se no sarei già passato a casa tua a portare anche l'osso per Tommy, così ci pigliamo una bella spronza. Sì, quando vuoi. Sono due, tre settimane non tocco nulla, figurati tu. Non c'ho tempo, ma che no, puoi andare a coso. Ma che ero al Conte, ho trovato una cosa, a Gianni non è solo, figurati tu. Cazzo, ero il 25esimo, a Giubbia Libere me ne sono andato alle 9, mi ero il 25esimo per fare questo cavolo di cosa. Gli al Conte. Adesso volete ci vado alle 8 in punto. Vediamo se riesco a essere uno di più, così me lo sbrigo subito questa documentazione, per fare il bit Giampiero. Oh ragazzi, mi sono dimenticato una cosa, devo scappare un attimo, andare da Loriga a dire a mamma di pigliare una, un pacco di patatine rustiche, un attimino, torno subito, corro. Vai, tentato di lasciare vicino, è a 20 metri Loriga. Andrà bene, andrà bene. E vabbè, che c'è, a volte si paga in più e c'hai... magari pensavo che arrivava subito. Devo sai che a Sassari quando arrivano i pacchi se ne sbattono le balle qui, sì. Capito? Non è che lo consegnavo subito, no? Come la posta per l'Italia, no? Sì, vabbè, non succede nulla, no? Devo avere pazienza. Quando ho portato io, è arrivato mi sembra dopo tre giorni, pensavo che poi ci mettesse sei giorni, invece è arrivato tre giorni. Ha chiamato Marco, dice vieni, è già arrivato, ma lei dice sì, c'è aspetta, ci ha fatto in fretta. Cosa hai comprato? L'ha comprato da 50 ampere. Ma io c'ho quello cinese, ho pagato 30 euro, non c'ha strumento però, volendo, capito. Ma sono andata a poco vecchio con gli strumentini, c'ho il filo dentro e è fatta. Ma sapevo che avete fatto il vecchio, con gli strumenti da qualcuno, cioè si bussano i quelli vecchi. Poi attacchi l'amparo, metto il volto, metto è fatta. La stessa che non cambia nulla. Ma già vanno bene questi, per 25 euro di riserva, io tengo di riserva più che altro. Non lo sto usando, io sei l'aiutatore del tempo. Quindi, non lo tengo di riserva. Poi ho l'altro limitato di no, quello per riparare i macchini e basta. Ma di riserva te lo tieni quello, l'altro, quello nuovo. Tu bisogna avere tutti questo, quando magari ti crea problemi d'estate, prendi e attacchi l'altro. E ci sta, se ci butti il divano fuori alla finestra. Figurati, guarda, volevo comprarmi anche un divano, non so come ci ho fatto far passare questo di mamma io, abbiamo pigliato io e Simona, anzi, e anche Giovanni era in 4 abbiamo preso. A quanto ce l'abbiamo fatta a farlo passare nelle scale, nell'angolino, la stessa indicata cosa tua, è uguale. Solo che tu non c'hai il soffitto molto più alto, io ce l'ho più basso. Tu mi dici, adesso sono piazzate, arrangiatevi. Ebbene, non devo sapere niente, no, perché l'hai pagato in contanti. Se avessi pagato a rate, se tranquillo avessi detto ascolta. Il divano non passa e quindi rate non ve ne pago, arrangiatevi. E tranquillo se avevo venuto a casa tua piazzata. Bene, bene. Meglio così. Me l'ho centrata, ma non quella, io alla finestra. E me l'ha compresa delle patatine. Eia. Caspita, queste mi hanno colpito, no? Allora, sono patatine rustiche, sale e pepe. Devono essere un po' speziatine, mi. Sale e pepe. Guarda, devono essere buonissime. Adesso le gusto, dai. Aspetta, calmami che frigge. Buonissime, sono di pepe. Sono proprio profumate di pepe. Sì, la salina mi ha già mangiato un pacco intero di un pacco, una trofata piena di patatine fritte che ha regalato a Giovanna, fate la pizza in cotta, la rimanenza di un pranzo di 80 persone, c'era poca roba, carne, di tutto c'era. No, quella salvato proprio non mi piace, lascia perdere che quello è un po' così così. Devi andare in Corso Vicco, devi andare dietro Corso Vicco. Quello sì che la fa buona la fine. Ti fa aspettare, però è veramente buona. Io quando compravo la lì, compravo. Si abita a Corso di vicino a me. A quello della fine. Tra cupi. Non mi ricordo il nome dell'articolo. Che parlava baracchino, ci abitano CPD. Ragazzi, un attimino che mi scaldo da mangiare, dai, vi ascolto. Sì, allora gli siamo a posto. E quelli che non ti portano la pizza a casa, e la fai lì. Ecco, no, le turbine no, e quelli già vengono e fanno il lavoro loro. Infermieri. Specialmente quelli di medicina d'urgenza a primo piano che c'è via la Santissima Annunziata, mamma mia, uno peggio dell'altro, so. i medici, io questa cosa stessa sono gli infermieri, una pipola dall'altra. Via, ciao, buon credito, siamo domani. Ciao Natalie, ci sentiamo Natalie, dai, sei adesso dai, mi attacco la TV, dai, ciao Tony, anche a te, dai, già ci vediamo, appena possibile, ciao. Via, d'accordo, ciao.